Marte, Venere. Olimpo degli dei, Daniele Mondello. Techno. Marte, simbaghi di Venere, ed ebbe da lei Eros, il dio dell'amore. Orgasmatron! Nell'Olimpo degli dèi stava suonando Daniele Mondello. We'll be right back. dea dell'amore e il dio della guerra, fu subito Orgasmatron. Nell'Olimpo degli dei stava suonando Daniele Mondello. Thank you. momento Giunone e Minerva sentirono nel cuore il morso della gelosia. La loro supremazia sarebbe stata messa in forse da quella pericolosa rivale, Venere. Di lei si innamorò perdutamente anche Daniele Mondello, Orgasmatron, Rin, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dei. We'll be right back. signore del fulmine, diede Venere in sposa ad Efesto, ma ella non gli restò mai fedele. Nel suo cuore Marte, nella sua mente Daniele Mondello. Orgasmatron. RIN, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dèi. violenza, la discordia. Si amarono contro il volere di tutti gli dèi. Orgasmatron! Sulla vetta dell'Olimpo stava suonando Daniele Mondello. We are. dalle fatiche dell'amore, Marte si abbandonò tra le braccia di Venere. Fu Daniele Mondello a riaccendere i loro irrefrenabili istinti. Orgasmatron. Rin, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dei. We'll be right back. dell'amore e il dio della guerra fu subito Orgasmatron. Nell'Olimpo degli dei stava suonando Daniele Mondello. We'll be right back. Rin Radio Italia Network. Nell'Olimpo tutti stavano seguendo con ammirazione e giubilo le gesta mitologiche di Daniele Mondello, Orgasmatron, Nettare degli Dei.